Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Il messaggio contro Esodo è stato un messaggio molto forte, un messaggio che oggi vogliamo rilanciare e che io ho sempre avuto in questi 8 mesi di lavoro al governo del paese, per il governo del paese, ho sempre avuto in testa il messaggio e i valori che stavano attorno a questa iniziativa, quella di dire ai tanti giovani italiani che sono andati via e con un biglietto di solo andata hanno lavorato, hanno trovato occasione, hanno sviluppato il proprio talento, bene, che l'Italia si interessa di loro e che c'è un tentativo di far sì che il loro talento possa essere sviluppato anche in Italia. Quella proposta di legge con l'incentivazione fiscale annessa ha funzionato, funziona, può funzionare sicuramente meglio, ma ci interessa soprattutto quei valori che stanno attorno al messaggio. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Prima puntata 2014 per la nostra trasmissione che riparte con le parole del Premier Enrico Letta nel messaggio lanciato all'evento Me Talents di fine dicembre, evento che ha riunito in campagna oltre 100 professionisti espatriati. Letta ha centrato le sue parole sulla legge contro esodo, di cui è primo firmatario, norma che, come anticipato in esclusiva da Giovani Talenti, ha riportato a casa oltre 2.000 giovani professionisti nel 2012. Il Premier ha citato infine nel piano Destinazione Italia, di cui torniamo a parlare tra poco. La prima frase del 2014 è copyright di Alberto Tesi, segretario generale della CRUI e rettore dell'Università di Firenze. La fuga di giovani italiani all'estero avrà ripercussioni drammatiche sul futuro del nostro paese se non si interverrà con urgenza e atti concreti. Secondo Tesi, è necessario fermare l'emorragia di giovani che si formano in Italia e vanno all'estero, soprattutto nelle aree a forte innovazione e sviluppo. Lo spunto di riflessione ce l'offre invece la Coldiretti, che denuncia una volta di più la spaventosa anomalia gerontocratica italiana. Hanno un'età media di ben 62 anni i presidenti di tutte le associazioni di impresa tricolori. La classe dirigente più vecchia d'Italia si trova nel mondo economico, specifica la Coldiretti. Il record è appannaggio delle banche, età media 69 anni. Noi aggiungiamo che secondo Aldai solo il 27% degli 800.000 manager italiani è under 40. Si dice sempre largo ai giovani, ma la vacuità delle parole si infrange contro il muro delle statistiche. Dopo la politica tocca all'economia avviare il ricambio. Potremmo seguire l'esempio americano. Indovinate un po' chi hanno deciso di affidare nello stato della California l'ufficio per l'attrazione degli investimenti esteri. In Italia ancora manca una cultura della concorrenza. Le imprese trovano più facile fare accordi politici. Purtroppo i talenti emergono quando c'è vera concorrenza sul mercato e in Italia la concorrenza ancora non c'è. Davide Bolognesi, 35 anni, è a capo del Dipartimento per le Relazioni con gli Investitori Internazionali dello Stato della California. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Una quota sempre più consistente degli oltre 2 milioni di giovani disoccupati tenta di trasferirsi all'estero. Gli under 35 che nell'ultimo decennio sono stati costretti a recarsi oltre confine in cerca di un lavoro sono più che raddoppiati, passando da 50.000 a 106.000. Lo rende noto l'ANIF, segnalando che nel 2012 l'incremento di coloro che hanno acquisito una residenza straniera ha toccato livelli record. Oltre la metà sono giovani. E secondo Luigi Nicolais, presidente della CNR, sono 300.000 gli italiani altamente qualificati che emigrano ogni anno all'estero, anche per brevi periodi. Una stima per difetto dei ricercatori può essere intorno alle 4.000 unità l'anno, ha detto Nicolais alla stampa. Migliori condizioni di lavoro, stipendi più elevati e meritocrazia, i motivi identificati da Nicolais. Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia le mete preferite. Intanto le statistiche impietosamente ci ricordano che a dicembre la disoccupazione giovanile in Italia ha toccato un nuovo record, 41,6%, 659.000 giovani senza lavoro, i giovani inattivi sono quasi 4 milioni e mezzo. 28,5% dei giovani italiani tra i 15 e i 34 anni non studia, non lavora né è inserito in un percorso di formazione, lo rileva l'Istat sottolineando che si tratta di una quota record. Al sud la percentuale sfiora il 40%, 437.000 giovani hanno nel cassetto una laurea o un titolo post laurea. Per data lavoro un laureato under 30 su 4 è disoccupato. Problema salari. In Italia dal 2010 al 2012 le retribuzioni nette dei lavoratori dipendenti sono diminuite di 64 euro al mese, passando a una media di 1.264 euro. Lo si legge nel rapporto Banca Italia. Colpa anche, afferma Banca Italia, del progressivo deterioramento della qualità del lavoro tra i giovani laureati. La quota di dottori occupati in mansioni a bassa o nessuna qualifica è arrivata al 32%. Cercasi infermiere, ostetriche, fisioterapisti, tecnici di laboratorio. Nell'Europa disoccupata cresce la domanda di manodopera nel settore sanitario, secondo l'Osservatorio Europeo dei Posti posti di lavoro vacanti. Altri settori con molta offerta sono sviluppatore di applicazioni software, segretario amministrativo e specializzato, insegnanti elementari e degli asili. Per Adecco nell'Europa 28 ci sono oltre 3 milioni di posti vacanti, solo 46.000 però in Italia contro i 300.000 della Francia e il milione della Germania. Continuiamo a raccontare storie di controesodo in Italia, a volte di successo, altre volte segnate da maggiori difficoltà. Oggi vi proponiamo quella di Giacomo Cavalli, 31enne consulente specializzato nelle politiche europee, rientrato da pochi mesi da Bruxelles dopo 5 anni di lavoro in Belgio. La mia esperienza è stata per certi aspetti molto positiva, perché avevo voglia e desiderio di rientrare in Italia già da parecchio tempo. Quindi sono arrivato in Italia carico di entusiasmo, mi sono messo subito in gioco con un nuovo master. Da lì ho iniziato tutto un percorso che mi porta fino a questo momento in cui ho cercato delle occupazioni di tipo più fisso. Secondo te l'Italia è un paese che offre opportunità lavorative di rientro ai suoi giovani professionisti che tornano dall'estero, quindi con qualifiche enormemente accresciute? Non troppo. Non ho visto questo valore aggiunto. Più volte mi è stato detto da persone con cui ho fatto interviste: come mai sei rientrato in Italia, perché hai lasciato una carriera a Bruxelles, quasi stupiti della mia scelta. E al tempo stesso però non ci offrivano delle opportunità. Ma questo secondo te è normale? Assolutamente no. E noi invitiamo anche altri controesodati a raccontarci le loro storie di rientro scrivendo a giovanitalenti@radio24.it. Infine, il Ministero dell'Istruzione offre un'esperienza professionale retribuita in Europa come assistente di lingua italiana, i requisiti under 30, studenti magistrali o neolaureati. La domanda va compilata online sul sito del Ministero entro il 16 gennaio. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta sul Pacifico. Vi abbiamo raccontato in questi 4 anni tanti sogni americani realizzatisi in California e oggi ve ne raccontiamo un altro ancora più straordinario, credeteci. Nome: Davide. Cognome: Bolognesi. Età: 35 anni. Città di origine: Padova. Studi: Padova, Washington, Cambridge. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2012. Per andare dove? California. Perché? O emigravo o finivo a dormire sotto i portici di Bologna. Quale lavoro svolgi attualmente? Mi occupo di investimenti internazionali per lo stato della California. Dove? Ufficio di Mr. Brown, governatore della California. Tornerai? Non lo so, per ora voglio aiutare le aziende e gli imprenditori italiani da qui. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one, California, here we come, right back where we started from. Phantom Planet con l'indimenticabile California, Here We Come, per introdurre la straordinaria, sottolineo il termine straordinaria, storia di Davide Bolognesi che inaugura il 2014 di Giovani Talenti, storia che ci porta dentro al sogno americano, sogno che tu hai potuto vivere in tutta la sua pienezza. Non si trovava un californiano per promuovere la California nel mondo? Boh, sta di fatto che ora lavoro per il governatore del più grande stato statunitense, uno stato che se fosse sovrano sarebbe la nona potenza mondiale, c'è scritto Davide. Negli Stati Uniti, ti chiedo, conta più chi sei, da che famiglia vieni o conta cosa sai fare per davvero e quali risultati puoi portare? Conta quello che sai fare sul lavoro, quello è fondamentale negli Stati Uniti. Do subito il benvenuto a Stefano Firpo, capo della segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico. In parte, come vedremo presto, le vite di Stefano Firpo e Davide Bolognesi corrono su binari convergenti e non solo per il tipo di laurea che è identico. Stefano, cos'è Destinazione Italia? Destinazione Italia è un piano del governo che suggerisce 50 iniziative e misure per migliorare l'attrattività del nostro paese, sia per attrarre capitali che per attrarre talenti, ed è oggi anche un decreto legge perché 10 di queste misure sono diventate legge dello Stato. Tra poco torniamo con te Stefano, prima però la storia davvero da libro di Davide, storia che inizia con una laurea in scienze politiche a Padova 2002, perché quella scelta di studi? Allora volevo fare la differenza, dovevo scegliere tra giurisprudenza o scienze politiche. Alla fine con giurisprudenza vince una causa, con scienze politiche almeno sogni di cambiare il mondo. Col senno di poi, quale voto daresti alla nostra università? Soprattutto, in un'altra vita, sceglieresti di studiare in Italia o voleresti in California? Purtroppo 5,5. L'università italiana è ancora oggi troppo nozionistica. Criticare e dibattere sembra che sia prerogativa o dei collettivi di sinistra o di quelli che hanno tempo da perdere. Comunque non so se sarei stato così intelligente per essere ammesso all'università californiana. Ripartirei dall'Italia. Andiamo rapidi. Dopo la laurea parti una prima volta per gli Stati Uniti a Washington per uno stage, rientri a Padova nel 2005 per un master in commercio internazionale, un anno dopo sei già oltre Manica per un master of philosophy all'università di Cambridge, nel 2007 di nuovo a casa ma questa volta a Boston. Bologna. Allora fermiamoci un attimo, perché questo biennio di estrema mobilità internazionale? Ma stavo facendo un master in economia a Padova e quasi contemporaneamente uno in storia a Cambridge. Un fine settimana sì, uno no, ero su un volo della Ryanair per finire entrambi in tempo. Dopo il 2007, completato gli studi, mi innamoro di una donna fantastica e lì non ci vedo più niente. Torno in Italia per sposarla. In Italia un lavoro lo trovi come ricercatore in università al Dipartimento di Politica, Istituzione e Storia dell'Università di Bologna. Resto fino al 2010. Fino a qui sentivo che anche io avevo un futuro in questo paese, che non è vero che devi per forza sempre conoscere il prete del paese o un politico, scrivi. Perché allora lasci l'università? Ma arriva un punto nella vita nella quale uno deve scegliere se lottare per andare avanti la ricerca in Italia o mandare avanti la propria famiglia. Nel 2010, con un figlio che aveva un anno e mezzo, la moglie giustamente a casa a tre, mi trovi davanti a questa scelta. Ti capiamo. Nel tuo paese ci credi e lo dimostri cercandoti un altro lavoro qui. Nel 2011 inizi presso un'azienda americana in Italia. 6 mesi sul marketing e poi la vendita di servizi finanziari alle aziende. Perché questa esperienza però alla fine non funziona? Eravamo nel periodo della più grande crisi finanziaria e l'azienda non approvava linee di credito, di nuovo le banche. Io venivo pagato a commissione, se la banca non elargiva il credito io non venivo pagato. Arriviamo al punto cruciale, tu in questi anni non hai smesso di inviare curricula in Italia, alle spalle potevi vantare esperienze di livello in azienda, università e anche un portfolio di studi internazionale. Quante risposte hai ottenuto, ma soprattutto che tipo di risposte quando arrivavano? In 2 anni ho spedito 500 più domande di lavoro, ho ricevuto 2-3 risposte e ho fatto un solo colloquio, quindi molto scarse. Neppure a fast food ti offrivano qualcosa, mi ricordo. No, neppure. Davide, perché il nostro tessuto produttivo, e lo dico non solo basandomi sulla tua storia, ma anche sulle centinaia che abbiamo raccontato in 4 anni, è così difficile da penetrare per giovani professionisti dal profilo internazionale? Italia ancora manca una cultura della concorrenza, le imprese trovano più facile fare accordi politici, purtroppo i talenti emergono quando c'è vera concorrenza sul mercato e in Italia la concorrenza ancora non c'è. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Nel 2012, in piena crisi economica, maturo insieme a mia moglie la decisione di trasferirci in America. Dopo aver spedito oltre 500 curricula, consumato le suole delle scarpe bussando alle porte delle aziende, dopo non aver ottenuto un colloquio neppure al fast food, mi convinco che non posso far crescere i miei figli in questa Italia. Il problema è questo, Davide. Che futuro ha un paese che, al di là dei giovani, fa emigrare anche i loro figli, che perde le giovani generazioni del futuro? Io onestamente non mi aspetto di ricevere tutto è Italia. Italia ha dato tanto, ogni contesto ha quello che ha. A un certo punto le opportunità si sono esaurite per me, ho dovuto andare avanti in altro modo. Comunque io penso di mandare i miei figli all'università in Italia un giorno. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Davide Bolognesi, 35enne capo del Dipartimento per le relazioni con gli investitori internazionali dello Stato della California. Una storia davvero sogno americano la sua, riprendiamo ad ascoltarla. Giovani Talenti. Riassumo in breve, oltreoceano resti disoccupato 2 mesi, trovi lavoro come cameriere prima di passare a fare il pizzaiolo. Non finisce qui, fai il facchino fino a quando un bel giorno noti online un concorso per un posto nel governo californiano. Qual era la posizione in palio e perché hai deciso di buttarti sfidando 300 candidati? Ma scusa, con 9 mesi in California non spalle una dignitosa carriera da pizzaiolo, da cameriere, da facchino, che non l'avrei fatto. Hai ragione. Il 26 dicembre 2012 ti chiamano per dirti che il posto è tuo, Davide, da pizzaiolo a direttore delle relazioni con gli investitori internazionali per la nona, ipoteticamente, economia del mondo. Il sogno americano esiste allora? Beh, come faccio a dire il contrario io? Sei un testimone vivente. Ovviamente. Attualmente sei a soli 35 anni rappresentante della California al Ministero del Commercio e ho detto tutto. Dal sogno americano alla realtà italiana, come vedi il tuo paese dall'estero? Cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? L'America non è il paradiso, ma 2 cose che all'Italia mancano. Uno, un sistema di regole chiaro, l'applicazione della legge, la legge superiore a chiunque, e il secondo, un sistema concorrenziale. In particolare abbiamo approvato questo piano che si chiama Destinazione Italia, che è proprio la filosofia di Controesodo. Destinazione Italia, venire in Italia, investire in Italia, fare dell'Italia il luogo nel quale il proprio talento possa svilupparsi. Stefano Firpo, capo della segreteria tecnica del Ministero per lo Sviluppo. Queste le parole con cui il premier Enrico Letta ha recentemente spiegato l'importanza del progetto Destinazione Italia, che hai illustrato poco fa. Nell'ultimo anno, con questo progetto e il decreto startup, avete cercato di modernizzare il paese. Ti chiedo, quando ci sarà posto in Italia per un controesodo di talenti come Davide? Quando riusciremo a creare un sogno italiano per uno straniero qualificato che sceglie la penisola o per un italiano all'estero che torna? Credo, mutuando un po' le parole di Davide, quando nel nostro paese ci saranno regole più chiare, perché è evidente che uno dei nostri ostacoli, il principale ostacolo del nostro paese per diventare più attrattivo è quello di avere troppa incertezza nell'applicazione delle regole, e quindi dobbiamo migliorare il nostro contesto normativo e di regole per rendere più chiare e più applicate, meglio seguite. E poi certamente sviluppando di più la concorrenza interna del nostro mercato. Allora, con voi vorrei andare nel concreto di proposte su cui ragionare. Io so che Davide ha 3 proposte concrete che vuole illustrare in onda per cambiare meglio il paese e renderlo più attrattivo. Allora, ti chiedo di essere breve, Davide, ma esponicile. Parte le proposte il piano Destinazione Italia, manovra 44, sui visti per investitori stranieri. Ho parlato dell'esperienza americana con Flavio Zanonata a novembre e penso che questa sia un'ottima iniziativa. Di fatto l'idea di unire investimento straniero alla creazione di lavoro in Italia in cambio di un permesso di soggiorno sembra un'idea geniale. Il 90% dei cinesi si sente insicura di là della ricchezza raggiunta e sarebbe disposta a emigrare. Questa è un'immigrazione di ricchezza. L'unico interrogativo è quello di collegare insieme, penso che nella proposta del governo ancora non ci sia, quello di investimento con aree ad alto tasso di disoccupazione. Questo permetterebbe, se l'Italia implementa un piano simile a quello degli Stati Uniti, di veicolare l'investimento straniero in aree ad alto tasso di disoccupazione. Ti interrompo e chiedo subito a Stefano Firpo su questo punto. Noi abbiamo non solo abbiamo proposto di cambiare la politica sui visti e di riformare e semplificare alcune tipologie di visti per attrarre talenti, per attrarre capitali, per attrarre aziende, non solo l'abbiamo proposto ma lo abbiamo fatto. Nel decreto Destinazione Italia ci sono diverse misure che cambiano la politica dei visti in questo paese. Il decreto flussi di quest'anno prevede oltre 2.000 posti per attrarre investitori e imprenditori stranieri in Italia con procedure estremamente semplificate e con lo specifico obiettivo di creare start-up in Italia. Quindi queste cose stanno cambiando, le abbiamo finalmente mobilizzate. Finalmente abbiamo una disciplina sui visti che ha eliminato tutta una serie di burocrazie, di complicazioni che impedivano sugli investitori, sugli imprenditori, sui ricercatori, sugli studenti di fare il nostro paese un paese più attrattivo. Davide, in brevissimo le altre 2 proposte? La seconda è sulla manovra 47, sempre del piano Destinazione Italia. Sulla scia dell'Investment Summit organizzato da Select USA mi permetto di suggerire, oltre che a un evento simile anche in Italia che è già parte del piano, anche un'organizzazione di uffici di rappresentanza italiani all'estero che si reggano su una PPP, cioè una partecipazione pubblico-privata. La California a questo punto ha un accordo con un'associazione imprenditoriale di San Francisco che le permette di avere un ufficio commerciale pagato dai privati ma a dipendenza dello Stato in Cina. L'ufficio dello sviluppo economico potrebbe aprire uffici simili tramite accordi con varie associazioni imprenditoriali per estendere la rappresenza dell'Italia all'estero senza costi aggiuntivi per il contribuente. Anche qui chiedo a Stefano Firpo un commento. Già dobbiamo considerare che l'ICE, che gli operatori dell'agenzia ICE un po' funzionano così, nel senso che all'interno della cabina di regia sull'internazionalizzazione tutte le associazioni di categoria degli imprenditori sono rappresentate e spesso e volentieri partecipano alle missioni italiane anche con degli apporti finanziari. Oggi la struttura di promozione internazionale del paese stilizza sostanzialmente la rete diplomatica, la diplomatica consolare. Si può certamente valutare di trovare in alcuni mercati dove c'è maggiore interesse delle partnership pubblico-private più rafforzate, in particolare andando ad aggredire quei mercati in cui, anche per un portato storico, la rete... Fare squadra, insomma, che forse quello è un po' mancato negli anni all'Italia, fare squadra e andare ad aggredire i mercati esteri. Ma secondo me oggi si fa più squadra sull'internazionalizzazione. Bisogna. A tempo fa. Un'ultimissima proposta da parte di Davide riguarda più fare network tra italiani espatriati e giovani o comunque istituzioni in Italia, giusto Davide? In brevissimo. Brevemente, la terza proposta è stata una proposta geniale di Lorenzo Pompei che si chiama la Fonderia dei Talenti sulla scia della legge contro esodo, già sostenuto da un gruppo. Esatto, di questo abbiamo parlato e parliamo anche spesso in onda. Cosa ne dici, Stefano, di questo? Cioè fare più network, fare più rete al di là della singola piattaforma? Guardate, anch'io per lunghissimi anni ho studiato e ho lavorato fuori dall'Italia. E so perfettamente che gli italiani all'estero sono un asset pazzesco per fare promozione del nostro paese, sono i migliori ambasciatori dell'Italia nel mondo. Io quando ero a Londra ho fatto una società che promuoveva il vino italiano in Inghilterra ed è stata un'esperienza di grandissimo successo, quindi sono assolutamente convinto che su queste reti bisogna puntare maggiormente, bisogna però saperle anche strutturare. Oggi queste reti sono purtroppo poco strutturate. Un'ultima cosa, Stefano, quali sono i passi successivi ora per rendere l'Italia un paese di circolazione dei talenti e non più di fuga dei talenti? In primis bisogna appunto uscire un po' da questo tema della fuga. Oggi, esatto, fortunatamente il mondo è grande, i trasporti costano poco, e più che parlare di cervelli in fuga, mi piace parlare di cervelli in movimento, esatto, ma no, cogliere, esatto, le opportunità dove le opportunità ci sono. Certamente bisogna fare in modo che il nostro paese sia più ricco, più germinante opportunità. E il piano Destinazione Italia ha finalmente portato nel dibattito pubblico, nel dibattito anche interno dell'amministrazione dello Stato, questo tema come uno dei temi fondamentali al pari dei temi della competitività e della crescita economica. Finalmente il governo ha costruito un piano, questo piano c'è, è scritto ed è approvato, e ha costruito addirittura un provvedimento di legge di urgenza su questo piano. Su questa strada bisogna continuare e bisogna che anche all'interno del Paese si crei quel dibattito e quel consenso tale da portare avanti questo tipo di riforme. Grazie a Stefano Firpo del Ministero dello Sviluppo. E domanda di rito per Davide Bolognesi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Guarda quello che hai ottenuto con grande soddisfazione e non ti aspettare che nessuno ti dia niente. Tu non puoi sapere cosa ti riserva il futuro, ma sai cosa ti riserva il presente. Non perdere tempo e prendi quel treno ovunque ti porti. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi quarto appuntamento con la rubrica mensile Andata e Ritorno insieme ai nostri esperti di emigrazione e controesodo. Apriamo il primo spazio 2014 di Andata con l'ideatore di Italians in Fuga, Aldo Mencaraglia, che oggi ci spiega come utilizzare i social network per trovare lavoro all'estero. Se siete intenzionati ad andare all'estero, consiglierei vivamente l'utilizzo di LinkedIn, un social network dedicato al mondo del lavoro e alla carriera. LinkedIn è la più grande rete professionale al mondo e conta più di 260 milioni di professionisti. Il suo scopo è quello di aiutare le persone a collegarsi e a collaborare in ambito lavorativo. Sta diventando un passaggio obbligato per i datori di lavoro e le agenzie di collocamento per controllare le credenziali degli aspiranti lavoratori. LinkedIn è utilissimo per gestire la propria reputazione online. Infatti, i risultati di una ricerca sul vostro nome usando Google molto probabilmente faranno figurare in cima il vostro profilo LinkedIn. Creando il vostro profilo professionale riuscirete così a presentare in modo nitido ed autorevole la vostra esperienza e le vostre conoscenze in ambito lavorativo. L'indicizzazione da parte di Google migliora le probabilità di essere trovati dal datore di lavoro che cerca qualcuno con particolari conoscenze tecniche o esperienze lavorative. Non dovete preoccuparvi se pensate di non conoscere nessuno. Potete creare l'inizio della vostra rete di contatti semplicemente importando la rubrica di contatti che usate per scrivere email. È molto probabile che una gran parte di questi siano già presenti su LinkedIn e quindi riuscirete a partire da alcune decine, se non centinaia, di collegamenti. Un altro vantaggio offerto da LinkedIn è quello di mantenere vivi i contatti anche quando le persone cambiano lavoro o cambiano indirizzo email. Un uso assiduo del sito vi garantirà un costante aggiornamento per quello che riguarda le novità di carriera dei vostri collegamenti. Questi stessi contatti, queste relazioni e questi collegamenti vi aiuteranno a mantenere la reputazione online attraverso uno scambio di raccomandazioni, intesa all'anglosassone e non all'italiana, che farà capire a chi legge il vostro profilo che voi siete un professionista di qualità. Quando state cercando contatti all'estero, LinkedIn vi aiuta a capire come siete collegati alla persona con la quale volete dialogare. Se un altro professionista fa parte di entrambe le vostre reti di contatti, potete chiedere loro di essere presentato ed avere quindi molte più probabilità di ricevere una risposta alle vostre domande. Riassumendo, un impegno giornaliero su LinkedIn migliorerà di tanto le vostre prospettive lavorative estere. Tutte le info su www.italiansinfuga.com, email italiansinfuga@gmail.com. Anche il ritorno di Lorenzo Pompei, ideatore della Fonderia dei Talenti, si concentra sul mondo dei social network, ma come strumento utile a tornare a lavorare in Italia o semplicemente restare in contatto con la madrepatria. I social network sono probabilmente al giorno d'oggi uno dei modi più efficienti per rimanere in contatto col paese di origine se si è espatriati. I social network dipendono anche dalla fascia di età in cui l'utente si colloca. Quando magari per più giovani, tra i 20 e i 30 anni, è più diffuso l'utilizzo di Facebook, quando si comincia a avvicinarsi alla quarantina, probabilmente LinkedIn è lo strumento al giorno d'oggi più utilizzato. Questo vale anche ovviamente per tutti gli italiani espatriati che in qualche maniera vogliono tornare in Italia o considerano un'eventuale ricollocazione professionale nel bel paese. Ovviamente quindi un consiglio che si può dare a chi sta fuori, ed è questo specialmente per quanto riguarda gli italiani, è di avere coerenza tra i vari profili sui social network, quindi parliamo di LinkedIn, parliamo di Facebook, parliamo ovviamente di Twitter, ma anche dei propri blog personali o dei propri siti personali, perché un datore di lavoro anche in Italia al giorno d'oggi andrà a guardare sui social network e andrà a cercare delle incongruenze. E nel caso degli italiani c'è il fattore della residenza, quindi di fare bene attenzione a chiarire, a essere molto chiari sul dove si sta vivendo in quel momento, perché per molti l'esistenza a cavallo tra due paesi non risulta molto chiaro ad un futuro datore di lavoro. Su questo tema dei social network anche la Fonderia dei Talenti si sta organizzando e per il 2014 organizzerà una presenza più massiccia sui vari canali, specialmente Facebook e specialmente su Twitter. Quindi con un community manager cercheremo di animare la comunità di coloro che sono già iscritti alla Fonderia dei Talenti per creare una vera e propria community, per creare il circolo virtuoso dei talenti tra coloro che vogliono partire e coloro invece che vogliono tornare. Tutte le info su www.lafonderia.org, email info@lafonderia.org. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava e aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è cambiare i modelli, dibattetele in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di gennaio è: quanto considerate mediocre, anziana, poco istruita e legata a meccanismi prettamente relazionali e familiari l'attuale classe dirigente italiana e quanta parte di responsabilità ha, secondo voi, questa mediocrità nella fuga dei nostri migliori talenti all'estero? È giunto il momento di cambiare il modello di classe dirigente? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.